GPS, altitudine, longitudine. Allora io non ho mai fatto la misurazione qua, io ce l'ho il GPS, ma se non l'ho mai misurato, lo chiamo solo un giorno per vedere. Tu ti metti sotto casa, al lato di via Milano, proprio sotto le antenne, e ti indica quasi 390 metri. Mentre lì dove lui è, non credo che sia molto alto. C'è la salettina, ma non ha niente a che fare. Comunque non ha ostacoli davanti, ho visto, palazzi che lo coprono non ce ne sono. Sì, a quando si può nella mia zona non deve fare di un formaggio. Non deve fare, ma deve mangiare parecchio. Abbiamo già fatto queste prove, non mi spavento più con nessuno. Io sono una zona, ma non ha niente a che fare con me. Tu sei una torre, cioè un coso, un palazzone che è micidiale, però dico anche lui non scherza, penso che dopo di te ci sia solo lui in una posizione strategica. No, dopo di me c'è Monte Bianchino, e Filighetto, anzi prima di me c'è Filighetto, perché Filighetto è qualcosa più alta di me, quindi. No, ma io sto parlando di antenne montate, non parliamo di punti, sennò consideriamo Usio ed un'altra musica, io sto parlando dove ci sono antenne installate e funzionanti. Vabbè, lascia perdere oggi, noi stiamo parlando di satteri. Di satteri altezza come la mia non ce n'è. Perché la casa, il grattacielo alto, è più basso di me. Perché è in piazza, quindi è al corso, perciò come piano. Praticamente dal livello del mare sono più alto io, capito? Quindi il problema è che io non ho niente davanti, lui invece deve superare la mia zona, capito? Guarda, sono palazzi molto più alti di lui verso le gallerie, non è che è libero lui. Cappa, cappa. Vabbè, sono qua comunque in ascolto e sto facendo cose. Gianni, riprendi se ci ascolti. Gianni, ci sei, rispondi. Luca, ci sei ancora? Mario, ci sei? Avanti, chi è? Come? Roberto Quadrato, ti sei Antonio? Sì. Ripeti, non ti ho copiato bene. Che ti sento, tu come mi ascolti? Sono con un portatile, dai, non posso andare meglio. Avanti, chi sei? Anzi, Roberto Quadrato, sono Roberto Quadrato, chi sei? Probabilmente è quello, la cosa strana è che lo fa convinto. Una, due, l'hanno detto già stamattina, ho sentito la presentazione, dice la Juve non ha mai vinto col Messina. Allora, pareggiato oppure perso? Sono 2-2, adesso sto aspettando quando finisce, dovrebbe finire adesso la partita. Ma per un minuto ha segnato il Messina, poi ha segnato la Juventus al 18°, poi ha... praticamente la Juventus stava vincendo, finita meno abbastanza, perché non va a finire a meno un quarto, sono meno 5 passate, dovrebbe essere già finita. Ciao Luca, bello, vieni. di muscolo. Come sta tua moglie? Muscolo. Come sta? Guarda, se contento il tuo nome, non c'è problema. c'è un'altra musica, però per il meglio del baracchino che ho io, c'ho la china direttamente, non ho più bisogno di coso, come si chiama, di alimentato all'esterno, va benissimo, poi se buscherò soldi mi venderò quello e mi comprerò un apparecchio migliore, diciamo, di quello, ma non è per adesso, ce n'è per il pulsi. Orario, da mezzogiorno, dopo 10 minuti va a mezzogiorno e mezza, però già va bene, Aspetta, come a me. Ma stava rimanendo nello riluso, ho detto, erano le 10, dopo un pomeriggio, io mi dicevo un quarto, perché a tempo che è passata veloce l'ora. Poi controllo un altro orologio e ho detto, no, visto l'occhio. Quanto il tuo? E che ne so? di microfono. No, già stanno bene. Vediamo bene. Ma devo un po' mirare, sì. No, non ho un po' ricordo. Mi erano già tutti. Ma certo, ecco, mi ha tolto le cose, è perfetta la voce. No, raga. E la sono, è a zero. E era così, non lo ducavi su cosa. Yeah. scusa per esempio un po' stomaco. Ragazza, no, non è necessità, molte volte un buon vino mi mangio una cosa così, però non è che mi serva più di tanto. No, io stamattina sono faccio colazione con latte, io sto male dopo questo mazzo, come sono abituato, come tazzone, con un bel panino, pure biscotti, su via. La pagliappa. Bisogna riempirlo lo stomaco. Guarda, come tazzone me lo mangio, poi questo mezzo giorno e mezzo inizia lo stomaco, se non mangio male un panino così, non sto male. Lo stomaco bisogna riempirlo ogni tanto, se no non si canta mezza. Lo dipende dalle persone. Io non ne necessità. Io già, no, io sono un grasso, un po' trucchendi. Vabbè, non ti sono trucchendi, giusto, sì. Non sei grasso, ma non sono magro. Vabbè, diciamo che non sono neanche basso, neanche alto. Immagino l'altezza, siamo in due a casa, io il più grande, magri. Con il resto già sono quelli che picchi. Ma come ho capito, Gianni invece è in casa, è così. Gianni è un conto, ragazzi. Chi di Claudio? Ora parlate di Claudio. E Mario? Mario Mattesi, è partito con Buluezzo. E Antonio? Antonio è un cucco, Grazie. Sì, come è più attento da chi? No, non è grazie, Mario. Mario lì è come me, Antonio. Mario lì è come me. Più grosso di me. E sono quasi tutti in carne comunque, dai. No, raga, non mi c'è trucca di lunghio. Pompone non è una gomma. Come si chiama? Tiro. Sì, un altro, qui c'è un coso, Primo fabbricato che è di all'intorno, un cicilissimo. È duro, Che è sotto, Tino. Anche non si è mai fatto così grosso. È grosso anche, non è che sia grasso, è grosso. E Flippo? Luca non faccia il grosso. Vabbè, ma lui non è lì, c'è Franco, non sta uno, ma normale, dai, non è c'è avanti. Ma tu Martino è praticamente l'unico che conosco bene, che non so come fa la Martino. E lo conosco da minimo, come ti bussi lì. 25 anni, 20 anni, Ma che mette ne fa, Tino? Sì, e Natalino com'è? Maduro? Il fratello lo conosco da piccoletto, là. E Natalino, ma che c'è? Poco mottullo. Franco California, già l'ho conosciuto, è venuto a portarmi la roba. Un altro, E vabbè, quelli che conosco, insomma, da tanti anni, Franco del Taura, lo stesso con quanti anni, è nato qua a studiare a monte. E poi, vabbè, Tino, Franco California, quello che conosco, tanti anni. Poi con la Carino mi conosceva piccolino stesso, tanti anni. E più o meno si conoscono tutti. Mario da me lo conosce. Mario da moto lo conosce. No, ma io Mario lo conosco come di anni. ancora. Ma i genitori erano ancora acuti? Dico, gli acuti c'è, cioè, troppi mesi e troppi acuti, non è piazza la modulazione, però va benissimo, niente da dire. Yeah. Allora, così siamo senza schiarittore. E adesso qua che cosa? Questa cosa? Ora, così ci sono troppi impatti, in sera ci sono meno, confermo. Mi sembra sia la voce di Gianni di Tiburcio. sta forse aumentando così, sta aumentando un po' così, le cose un po', vola, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Facciamo girare, adesso credo che vai avanti Luca. Sure. sicuramente, perché la modulazione praticamente lo segna più basso, però ricevi tutto, quindi non è solo il modulatore di ricezione, è sicuramente sulla parte ricevente dello strumento. Ok, allora di Luca. Sì, aspetta, 2 secondi, Casper. Ma che hai fatto la preparato io, ci sentiamo la preparata. Sicuramente, guarda. sicuramente solo Sonia, perché le caratteristiche tecniche sono quelle dell'850, quindi. Mo vediamo, lo proveremo martedì, come va, e se non sbagliamo anche quelle lo rimandiamo indietro. Fino a quando ne trovo una, come dico io, che spinge più di questa deve spingere. Se non spinge più di questa, allora, chiarezza, vero, questa è una signora radio, e rimarrà sempre qua, al suo posto. Ok, vediamo un po' se Gianni si è avvicinato un po' a Sassari. Gianni, dove sei? Gianni al telefono, sicuramente. Allora, Roberto, riprende e fai girare per Antonio, va? Stavo dicendo, se io dai Claudio, il confronto con la, col portatile tira fuori il 5 di segnale e con quel patch 9, per cui c'è un miglioramento evidente, l'hai visto? Luca, ciao Marco, buonasera anche a te, avanti Luca. mezzo nel letto. Stavo dicendo che sto parlando con i colpi. Come va? Così è più affidabile, però chiaramente c'è la tua Non è così, a tutti i dì. Ma c'è una cosa che va bene, Marco, come radio, è buona adesso. Ecco, come sempre, qua adesso è nella posizione dove lo uso sempre qua il timer, e praticamente poco più di niente, proprio un pelino più di niente, capito? Non è stata fatta nessun'altra variazione. Mi sto ascoltando, mi sembra tutto normale, non riesco a capire che cosa sta succedendo qua. Anche perché la batteria generalmente tende a scaricarsi e perciò diminuire l'effetto dell'amplificazione, invece qui sembrerebbe il contrario. Adesso è così come è sempre. Quella era, mamma mia, un'emulazione da paura. vediamo, va bene. D'accordo, comunque per me questa mia è più che sufficiente, la grande. Ciao, grazie, buonasera, buon tutto. Vediamo se le prende Luca, altrimenti le prendi tu, Roberto. Ciao Marco, buonasera, buona carica, 751. Ecco il reato, la riascolta. Ciao Rocco, ciao Roberto, Luca, se c'è qualcun altro in ascolto, Gianni, gli amici. Ciao. Ma Marco, naturalmente a dopo, vediamo se i pescatori sono arrivati. Gianni o Mario, ci sentite? Comunque, sono andati verso Confermo, mi sono tolto tante soddisfazioni con il gommone, però è un travaglio. nera, ogni 10 minuti ti dà polacce nera. Troppo lavoro c'era, erano fatte in su, si poteva un regalato più che vendere, diciamo così. Capo è positivo, riprende Mario. Sono qui, più tardi il pesce, Mario, dai, non prego. Una bella gustetta, se mi capita una gustetta la prendo al volo, una bella gustetta che è giù al porto, ma lentissima, però puoi uscire con tutti i vari. Quella è una banca banale, cioè disloccante, per cui cammini con tutti i vari. Magari se devi fare strada lunga non conviene, però per fare la pescatina ce n'è per il porci. E allora, quella va benissimo. Per andare a Poggi, a Polentinare con quella lì, mica la tengono male con la barchetta. Le caspita sono pesanti, poi rimane tutta immersa la carena, non sono come le barchette comuni che sono barche planate, queste sono disloccate, rimane tutta la carena immersa nell'acqua e prende l'onda tranquilla. Tutto le dice, però sembra una carina Roberto, però se tu le guardi, se ti accadono il fatto suo ce lo fanno, non è che siano così lente, si attirano già, praticamente. Perché ne vario? Sembra che siano lente perché senti il motore ciu, però camminano, che io ho conosciuto un vecchietto che lui c'ha una barchetta così con motore dentro bordo, ma tutto barca per pescare vero, quelle, e piano piano però tu lo vedi, va, torna tranquillamente. Già camminano, sì. Magari non sono lente come uno scafo, come un gommone, però vanno. Capolaio. In definitiva, sì. Va bene, vediamo un po' se è diventato Claudio. Claudio? Claudio doveva caricare, si doveva aprire la pastiglia e caricare. No, non l'aveva già caricato, Gustavo. No, ha detto che era subito ora di tirare la pastiglia e poi doveva caricare. Papà Mario, è così. Sì, ce la trovo la lucetta, non me ripeto. Me la compro, con questo barca. Guardate la moto che c'è in barca. Adesso non mi dirai che io ti parlo, il mamma l'ho venuto quasi 11 anni fa. 11 anni fa. Quando siamo al domone andavamo anche da altre parti, ma più che altro vado a prendere Sì, se vai non ce lo vediamo, però allora non sono tipo che ci passa ore e ore. No, io quando vado a latte, ci passa tutto il giorno, vabbè. Io vado a me, se no guai. Se prendo ci posso stare tanto tempo, ma se non prendo mi rimasta subito la gara. Ma io non faccio un carpentiere, anche io. Ma se mi piace di più la pesca subacquea, quella mi piace, quella ci vado. Ma la pesca subacquea io la mallacca perché c'ho un problema, lo vedo, quindi praticamente non la posso più fare. E mi sono dato alla canna da pesca. No, no, vabbè, diciamo, la canna da pesca è bella, però se non prendi il livello, eccetera, eccetera, ti rimasta la gara. Mentre la pesca subacquea qualcosa la tiri fuori sempre, ma almeno la vedi, se non la vedi la vedi. È troppo rischiosa, no no, io me l'ho vista brutta un paio di volte, no, è una mollata, forse è stata bene mollarla, perché io una volta sono sceso a un paio di metri e allora sono vista molto brutta, quindi poi sono risalito, capito? Solamente la prudenza non è mai troppa, bisogna stare molto attenti, io normalmente non scendo l'acqua alta, vado l'acqua bassa, vicino, appena vedo che sono al limite subito salgo su e non mi metto a puntare il pesce, non me la futti nulla, se non me la vuoi me la salgo. Guarda, anche un amico mio, non so se lo conoscevi, lavorava ai Tottissini, che era un grande sub, E un sacco di amici ho perso io, almeno due o tre ne conosco di persone molto brave, purtroppo hanno strafatto. Sott'acqua quando stai male non ci mette a fare, è un problema, se stai a male a terra bene o male riesci a salvarti. O riesci o ti salvano, ma quando sei sotto il fondo non c'è nessuno, la cosa è molto critica. Registrato, avanti, una buonasera. Buonasera, Franco da voi San Fatto. Ciao Franco, ciao Mario, ciao Roberto e ciao alla struttura. Sono stato per chiedere un'informazione, non è che è stato che qualcuno riesce a migliorare. Migliorare? Sì, mi sono pescato il culo alla corna che mi sta distruggendo la mano. Qua io ti posso prestare una carabina, non di mia. Claudio e secondo me mi ha ripiazzo io. di nuovo tutta la lumina alla misura adeguata, li metto in vice tagliare, la pulisco e gliela ripiatto sopra e questa la rimuto giù. Franco, poi vabbè. Non li puoi fare da andare avanti per dire a prendere in acciaio inossidabile radiali, allora che non si faccia di più. Ma lo sai come sto facendo io praticamente, Robè, e siccome che passo da C, anzi passo da 8, e passo, compro praticamente 8 barre filettate o 16 barre filettate in acciaio, e non le faccio tutto in acciaio inox, in acciaio pieno di barre da 8. La faccio a misura di quelle che c'era, le taglio bene con la moletta, li metto sui cappuccini, e io penso che non si spaccano più. Certo, molto lunghi sono i radiali. Ma dovrebbero essere sugli 80 cm lungo, non 90, no, una barra del genere. Ecco, 16 me lo rimetto qui. K, sì, 16 radiali ci va. Ora c'è un ombre di materiale, un ombre di là puro. Vabbè, ma è una tenda pure che tiene 4500 watt, E vabbè, non l'abbiamo da fottere di 4500, chi li usa come potenza? Gli hanno detto non si può mai sapere. Quando l'ho comprata io l'ho pagata 230.000 lire, era una stella dell'Assirio ed era un'ottima antenna, capito? Ce n'è una di fronte a casa mia che ci sarà a vent'anni di lì, che nell'altro se ne mancano tutti i radiali. Devo cercare il capocondo, la smonta e me la metto a fare. Tutto lì, capito. In definitiva la società è tutta pulita praticamente, la comprai quella lì, poi quando comincia un bel tempo, all'inizio salgo, ne butto giù quella lì e ci rimonto attorno all'altra. Con questa non dispiace come antenna, perché ho visto che già va bene, non è che sia, ma non è che sia un gran sé di antenna, però già va bene. Là. L'antenna è questa? Questa è la Mato 2.5, vabbè. Vabbè, dicono va più che bene, dai. Ma io ero più qua sul panello della Mato 2.1 perché è molto superiore a questa. Però va bene lo stesso. Sono la Mato 2.1, ma ho messo, c'era una 5, c'è stato quel problema e ho preso la 1. Ma la 1 secondo me è meglio della 5, quindi quello che vuoi. Vabbè, sono identiche, mi cambia che c'era un radiale in meno, bu. Ma anche il mostro mi ha detto che è diverso. No, assolutamente no, identico, perché te lo confermo io perché a me mi sono rotta la base e l'ho sostituita per questa l'altra, sono identiche. È uguale identiche sono. No, fuori almeno per il radiale, cioè buona identica. Ecco, praticamente la tua antenna l'ho già fatta, cioè tutti i pesi, sì. Gaffa gaffa. Certo, non so quanto costava, Robè. Non so, ma mi ha detto c'era poca differenza, per cui è stato meglio comprare direttamente l'antenna intera. Perché il mostro ha fatto una battuta a me, pare che era sulle 50 euro. E 70 invece costa con l'altra. Allora, come ha fatto troppo bello fare così. Che cavo è messo, cavo grosso o cavo fine? Allora, la 1058 è quello buono, qualità superiore, perché tanto la tratta è breve, non la necessità, e poi non le voglio cavi grossi dentro casa. Sono buoni, è un buon filo il cavo grosso, però Robè, ti posso garantire che ho una rottura di palline, perché devi bucare, io ho bucato il muro qua, la parete, via. No, non le voglio, non sono così perfezionista, se mi dici uno lo usa tipo Claudio, la fa un certo tipo di discorso, va bene, ma non è caso mio, per parlare qua in città viene a ribuchi. Infatti, vabbè, e poi quel cavo che avevo messo tutti è un cavo buono, ultimo. Già pagava. Poi ho dovuto buscare la parete per poter passare quel filo grosso, e va bene, l'ho fatto, non bene, ma eccolo lì. Ma poi non più, ho ritornato la vita, capito cos'è? Niente da dire, quando si frasigheggia lo giambo e lo stiamo a prendere tempo, ma come può fare 5 anni? Se fa più 5 anni viene a fare il pulso. Sì, io ce l'avevo 20 anni su, è durato un po', vabbè. Se la dire, quello grosso ti dura 30 anni, non ti si rovina mai, perché c'è anche un rivestimento di copertura eccezionale, la 1058 non ha di coso, di isolante, non c'è niente, però le 1213 o le 1018 sono 4 volte più grosse. Però ti posso dire una cosa, Robè, che se il 213 basta che ci sia un'intaccatura dove c'è la gomma, dove c'è la calza, e il filtro, come mi fate, si fa tutto a meno, dall'inizio 1248, se ce l'ha due bombe addirittura, adesso ti dico il particolare, addirittura nel 1248 che avevo io sulla verticale, sul tetto, praticamente, me l'avevano appunto tutto quanto ad un lago, capito? Qualcuno ha fatto di schietti allora? Adesso è morto questo di sopra qua, praticamente. Allora, tutto bucato con l'ago, e infatti una volta, è stato lì, perché la malattia, diciamo, l'avevo abbandonato. Allora stavo cercando, mettendo a posto a casa, con quella volta mi sono arrivati i numeri, stavo sistemando gli altri numeri, tutto quanto, e è stato il nome del baracchino, la macchina, ci sono 486. E adesso provo a acceso, ho acceso, ho visto, perché allora mi ha detto, cioè, mi sono ripreso attorno a fermare la chiacchierata, tutto quanto, e poi mi sono accorto che questo filo qua era tutto punto, perché era attaccato al barometro, era stazionario, cioè a quello scalzo rosso. Non sarà che qualche pizzone, qualche uccello che si è messo a beccare? Ma guarda, no, vabbè. Ti posso dire una cosa, che il cavo non era appunto là sul tetto, ma bensì era appunto proprio dalla finestra di questa signora qua. Era, c'era un 5 punto di ago, proprio in diretta, c'era ancora qua quel filo lì. Ma bucare deve essere una persona pratica per fare un lavoro del genere, perché normalmente uno piglia un coseso e non lo taglia. Per pugno deve essere qualcuno, qualche persona furbetta che sa come intervenire. Allora, se tu prendi il cavo, nel 1248, prendi un ago, ecco la punta di ago di quello grosso, oppure ago anche di quelli che sono per cucire, ci può dire, tu lo infili da parte a parte e poi lo ritugli, ma se tu prendi la punta gliela fai appena sorta nell'ago, lo metti, lo ritugli, praticamente cosa succede? Una volta che tu lo buchi da parte a parte la calza, se ci infila alla, praticamente al polo caldo del cavo, no? Trovando a massa in definitiva. Ma capo, sì, ma è un trucco, io conoscevo gente che se l'ha fatto per discreto, però era un CB, l'ha fatto un altro CB, però farlo una signora così mi pare strano. Però è lei che l'ha fatto, no? Non è la signora. Io gli sono dicendo la signora l'avete sopra casa, però il marito che l'ha fatto quell'operazione lì. Io non me ne sono mai accorto, la verità, perché poi avevo cessato l'attività e l'avevo abbandonata, diciamo, così da 27 e non mi sono mai preso la brega di riattaccare, rifare, capito, tutte queste cose qua. E allora, un bel giorno, come ho detto, ho trovato e mi sono accorto appunto lì, così detto di questo problema qua, tutto lì. E poi ne vario. E ma c'è una novità, dunque. Succede, gli spetti li fanno. E magari quella signora, come dici tu, non ne sapeva. Magari qualcuno che ne sapeva e le ha detto mi va a sentire di uno spillo. Vabbè Mario, in effettiva sì. E poi praticamente Mario tu sei benissimo, una volta che il cavo lo punti, con l'umidità praticamente con la pioggia, questo e quest'altro, l'acqua va a finire all'interno del cavo, e cosa succede? Che la calza ci fa nera. E poi in definitiva il conto il cavo non è preso e buttato via. Come quando hanno consegnato le case, io sono stato il primo che ha pigliato possesso, capito? Ma non perché, perché era l'occasione buona per mettermi la tenda, fare scendere i carri, tutta quanta quella roba lì, capito? È stata un'occasione, ho detto, oh, non c'è nessuno in mezzo ai piedi, poi c'era l'ingegnere che mi diceva i buchi non farli così ma farli così, perché così l'acqua anziché entrare non entra, e niente, io ho fatto tutto quanto, ho piazzato, quando sono venuti loro la tenda era già piazzata e non mi potevano dire manco non ci hai chiesto il permesso, perché l'antenna era già piazzata da prima arrivare da loro. Franco, mi sembra che ci sei pure tu quando abbiamo piazzato l'antenna, vero? O no? Beh, Franco è Parigi, riprenderò me. Quindi c'è già che stava anche ai casi con il trisapollo, che se non sbaglio. E che sei tu, piccolino, piccolino, pieno di scorrenti. Avanti che io devo entrare. Ah, forse c'è Franco, Franco Delta 1, se non vado errato. Avanti Franco Delta 1. Che non si ha vita, come si muove, fa Non lo conosco, Mario, non lo conosco. Questo qui è largo 5.010. Ascolta, è quello di luce in macchina, guarda, 548. Ma la Ita chi è quello di luce in macchina? Ti ho lasciato 48. 606. 606. Grazie. fare tu che ce li hai, va bene, se no non te lo autorizza nessuna legge che tu sei costretto a denunciare gli apparecchi. Prima sì, lo dovevi denunciare in questura. Prima sì, ma io ce li ho tutti denunciati in questura gli apparecchi. Cosa c'entra quello lì? Denuncia in possesso. Prima io me li ho tutti denunciati, io denuncio verso quelli, io sempre tutto denunciato. Tutto denuncia in possesso, capito Mario? Il numero di serie è stampigliato dal telaio, però l'omologazione molte volte ti mettono visivo, c'è scritto nero, omologazione del Ministero delle Trasporti e Telecomunicazioni, decreto eccetera eccetera, quello è un adesivo che ne non lo pulisci per dire. E poi secondo me sono anche delle cazzate, diciamo così, però purtroppo è con un discorso. Il baracchino è un'arma, è come che sia un'arma, non hai capito. Agaffa, allora io avrei voluto vedere un elenco, dice che esiste un elenco, non niente ne sa dove si trova l'elenco di tutti gli apparati omologati per marca, perché a me io quando ho chiesto per l'Inter, il mio Inter che è omologato, mi ha detto che modello è, io non me lo ricordavo per telefono, però c'è scritto omologazione, va bene, non si preoccupi, me lo scriva nella domanda. Sì, quello sì, vabbè, non c'è problema, perché anche io ho l'Inter che si compra proprio, che è omologato, non è la normazione, però la concessione l'ho scritta e va bene, l'ho preso, quindi non c'è quel problema lì, capito? Poi comunque automaticamente perdendo anche l'etichetta come hai detto, anche se quella che ho io praticamente è posteriore, è tutta rigottata dietro, non è adesivo, capito? È l'adesivo rigottato. Ma il palmare mio è un adesivo dietro, se voglio si può anche attaccare, ma non lo puoi mettere nell'avierio, ho già capito quello che stai dicendo, tu ce l'hai in alluminio rivettato, ma è già un'altra cosa, però nel portatile mio c'è un adesivo e basta. Ma anche se lo pierdi comunque non succede niente, perché loro in base alla marca dell'apparecchio sanno se è omologato o meno, capito? Ma infatti mi hanno detto così loro, dice se mi dici il codice ti dico se è omologato o no, perché ho detto l'apparecchio c'è scritto omologato, dimmi il modello, però ho detto non me lo ricordo, dovrei vederlo, ho detto non si preoccupi, tanto lo scrive nella domanda, però dice che c'è una manca dati che puoi entrare su internet e ti rilevi anche apparecchi vecchi degli anni 70 o degli anni 80, ti guarda il modello e ti vede se figura in questo elenco, per cui anche se non c'è l'adesivo o stampigliato figura il modello dell'apparecchio. Ma l'importante è che non supero 40 caratteri, perché allora c'è nel pool, io che parlo a parecchi, io 20 anni, 25 anni fa, se vuoi così in più, poi i canali, il cricket, il cricket 40 canali, c'erano altre varie marche che non sono votati, che non si rilevati, ma lo trovo aspetto sulla costruzione, capito? Appa, riprendi Mario. Franco. Come mai io ci avevo il Kimwood, ci avevo l'FT, ci avevo l'Argus, ci avevo il Morbimode, ci avevo, vabbè, il Tecnica perché me l'hanno trovato attaccato. Come mai sono apparecchi non omologati e mi hanno restituito tutto? Via, sta col piede, ma accoglierà dove adesso. camminare e non voglio che mi facciano qualche sorpresa. Con la lunga non mi interessa, con la lunga non me ne voglio niente. quella di fronte è troppo piccolina, ho paura di perderla. Quindi mi serve quella che l'ho già collocata. Questo lunedì proviamo anche quella di c'è sullo stile, tu c'hai però non c'hai l'antenna. Come le manca la base? L'antenna c'è, non dire c'è lo stile. Ci manca solo la base, vuole fissata la base lì e basta. Che cosa? L'antenna che ho io, ci manca solo la base, l'antenna c'è tutta, cosa vuol dire lo stico? Quello lo stico non è l'antenna, quello lo stico col moto attaccato, ci manca l'antenna praticamente, io ho l'antenna e c'è lo stico. Io lo chiamo con l'antenna, l'altro lo chiamo la base, dove c'è il galletto di fissaggio, quella lì si chiama base, la parte di fissaggio. Qui non c'è la base, c'è lo stico qui. Cappa. Infatti sto dicendo anch'io, io la base è quella dello stilo, quindi proviamo anche quello stilo che c'è tu, per vedere se va bene. Siamo al corto, per la forse più lunga di quella lì, ma per appena non quel palo di luce a tenere buio, ma lunga la scorsa, ma preferisco usare quella corta che funziona benissimo, non ci sono problemi. Va bene, meglio del primo. Sì, cappa. Anche perché se ti metti a correre oltre il 100, quella lunga, o si la metti, si stacca. Oltre il 100? Io ti devo andare a cagliare, io devo partire all'una e un quarto. Ma lì ti devo lasciare arrivare a 3. Fatelo un conto, ci devo camminare. Due motivi, uno perché io ci stavo lavorando e sono stanco, Vabbè, adesso è estate, se non è che mi fermo così per stare con gli amici, se no l'estate c'è la barca per andare a pescare. Basta. E Luca Manicomio dove? E cosa ne so io, Luca Manicomio dove? Sono là quando stavo parlando con te senza sentirlo, io non sentivo la pappatango. Non arrivava, la differenza avevi tra me e lui di segnale? Cercavo di entrare, però mi dicevate che eravamo a livello di QRM e niente, però vi ascoltavo bene. Avanti la portante. Riprendi Luke, quadrato. Finita la partita, 1-0 per il Milan, sul rigore. Vabbè, almeno non li ha fatti sfigurare là, hanno preso 1-0 solo. Sarebbe stato più se li avrebbero fatti sfigurare, ne avrebbero fatto 2-3. Certo, comunque la Juve ha pareggiato 2-2, il Milan era preso 2 punti in una partita. Ah, vabbè, ma si può dire quasi matematicamente il rito, però niente è detto ancora. Thank you. 150 megahertz. questa una volta la porta, come voglio fare forte da un'altra volta, capito? Mo vediamo. Però mettere l'altra radio, no? No, stavo dicendo, non lo so, sicuramente a te non ti interessano, quello è magari qualcuno che fa tipo rilevazioni, geometri e cose del genere, che fanno con gli strumenti di rilievi, forse può interessare a loro. Io sto parlando, in caso sia tutto in regola, attentati, naturalmente ci vuole la cosa, la patente, già lo so quella. Adesso poi ci sono questi apparecchietti da mezzo watt, 300 milliwatt, che stanno utilizzando tutti quelli, più comodi, piccolini, eccetera, eccetera. Ma quelli sono reali, sono senza licenza. Io le PD, capito? I BMR devono essere, ci vuole una licenza per detenerli, anche quelli. Mentre invece gli LPD no, quindi attenzione alle voci che sentite in giro, perché se ti trovano con un PMR sono cavoli tuoi, c'è una licenza da pagare, una tassa da pagare, perciò solo l'LPD si può ottenere, anche se hanno fatto una grandissima troncata comunque, per loro hanno un volume da tutti. Vabbè, la legge ogni tanto poi se la modificano, se no rimane tutto così, perché cambia soltanto il discorso della potenza, non è così, perché gli apparati sono identici. Vabbè, certo, cambierà la potenza, sì, nelle 15 a 500 milliwatt, ma se non ha piatto portatile c'è 5 watt, quindi se ti lo può ottenere, un radiomattore lo può ottenere, quindi lo può portare anche a pesce. Così. Senza fare niente, per partire a fare un solo, mi gioco il volume della galleria, sto guardando un po' per distrarmi internet, ma senza comprare tutto niente, ne ho messo qualcosa sui preferiti, non si sa mai che ci sia qualche offerta buona, capite? Programmi per basket, per radio, ma io te le vorrei. Offerte, ecco, audio VIP, microfono, non c'è un cacchio neanche oggi, tutto un detto io. Ma con l'apparecchio che ti deve arrivare Claudio, cos'è il 4,50 mi ha detto, così? Il mio telefono? Deve arrivare, cos'è il 4,50? No, mi dovevo regalare. sì, un 4,50 mi deve arrivare, no, già. Sono praticamente stamattina e quindi arriva lunedì massimo martedì, perché in celere 1, quindi domani domenica dovrebbe arrivare lunedì o pomeriggio oppure martedì mattina, adesso vediamo. Ecco, non è un sacco di soldi, ho fatto pagare un sacco di soldi comunque, adesso per la proviamo con l'MC85, se risponde come questa va bene, se non risponde come questa va bene. Ma è superiore di caratteristica alla 440 o è solo un apparato più recente? È un apparato più recente, dopo questo naturalmente è un semidigitale, progettato, praticamente c'è lo strumento come il 920, quello grande che hai visto, poi c'ha tutti i filtri, sì, è più completo, senza un play tutto. Però bisogna vedere il modulatore se si comporta come questo. Se il modulatore si comporta come questo, allora sicuramente si aggiudicherà il piano superiore o forse anche quello inferiore. Se la modulazione non è come questa, sarà tranquillo che fa la fine dell'850. K-gaffa. Anche perché io ce l'avevo già, il superiore è ancora il 450, che è l'850, grande come quello che hai visto, sempre di quelle categorie lì. Quello grande con il display arancione, tipo così, no? Solo che è ottima radio, ottimo tutto, però a me la modulazione non mi piaceva, ho provato con 1000 microfoni, 1000 cose, no, non mi è andata. Allora, veicolo, ma so nel bloccato l'ho rimandato a chi me l'ha venduto, e praticamente siccome c'è ancora i soldi miei, allora ci siamo sentiti e detto cosa c'hai questo, ma no, siamo funzionati, lo rimando indietro, capito? Siamo unici miei rapporti, quindi lavoriamo così, spero che vada bene, se va bene lo tengo, se non va bene io rimando nuovamente indietro e quando poi andrò lì vediamo che cosa prendere. Ma qua c'è un grosso negozio, vuol dire, un grosso distributore così? Sì, grande, calziere, attrezzatissimo, una persona che non ci vuole pagarlo per la diretta, la cosa stessa che ha verso i suoi clienti. Io tutte le radio le ho comprate lì, me le ha sempre date in ottimo stato, perfette, ne ha sempre di fuoco a tutto e quindi siamo buonissimi rapporti, perciò non vuole il pagamento anticipato, ma fa il day in contrassegno, io controllo, prego, provo, se è efficiente ritiro, se non è efficiente glielo rimando indietro, capito? Oppure lo ritiro, lo provo, lo seguo, se c'è qualche problema le telefono e lui dice solo mandamelo immediatamente indietro che te ne mando un altro. Basta, così si lavora, la serietà è così. Purtroppo qua non abbiamo gente da lavorare così, negozianti. No, non ce n'è, non hanno nessuna serietà, capito? Lui non vuole sentire niente, qua una cosa non funziona, non è un difetto, ma non è immediatamente indietro, subito, non vuole sapere niente. La persona felice, una corretta, è veramente, io l'ho conosciuto insieme, è veramente malato, tramite la tecnica di motori e mi sono trovato benissimo. Ho comprato 10-2000, ho comprato 9-20, nuovi dentro la scatola, ho comprato altre attrezzature, microfoni, balle varie, anche dopo usata, sempre in ottimo stato, senza un grazie, senza un'anomalia. E quando l'anomalia c'è stata, forse anche per non colpa sua, perché anche lui ritira dopo usata, quindi magari non ha il tempo di controllare eccetera, la metteria e la vende, mi ha sempre risposto, sempre, no, ma non ce n'è. È una persona veramente ad hoc, le persone che così vanno rispettate e vanno premiate soprattutto, capite? Cappa, dimmi una cosa, in quegli apparecchi, parlando di discorso generico, c'è il topo di gamma della ICOM o della IAESU o della Kenwood, c'è una differenza o sono tutte allo stesso livello? Beh, non tutte le radio sono allo stesso livello. La Kenwood è ferma come tocco, non è che abbia molta scelta in questo momento. Sto cercando di mettere sul mercato qualcosa che possa informare la ICOM e la Kenwood. La Kenwood è ferma, mentre la ICOM ha fatto il C7008, che è una bestia, è una navicella spaziale, proprio a livello di 10.000 euro, quindi ti ho già detto il prezzo, vedi tu, mentre la Iaesio sta cercando di avvicinarsi alla ICOM con questo FT9000, che sembra che sia superiore, qualcuno ne parla in superiorità, qualcuno ne parla in inferiorità, perciò adesso bisogna statisticamente provare quali di due possa avere il risultato superiore, perché giustamente le prestazioni delle radio sono molto elevate, sia di una che dell'altra, però sai, ci sono quelli che apprezzano una caratteristica tecnica, quell'altro invece la rispetta, perciò io ne ho sentito parlare molto bene sia di uno che dell'altro, però non so dirti molto perché sono delle radio uscite da poco e ancora qualcuno sta cercando di sperimentare, di vedere, insomma, di capire soprattutto tutto lì. Invece altri prodotti americani, c'è qualcosa di meglio di questi o sempre giapponese il top? Giapponese sta rompendo a sedere a tutti. C'erano tutti i marchi americani con gli storici, non si sono adeguati, e come i motori marini, prima avevano la Johnson, le Velud, adesso ci perché gli hanno fatto le scarpe. Sì, io non ero americano, sono rimasti di altro, giapponesi, stiamo sempre andando a menti e noi ragionatori stiamo comprando sempre le stesse radio, capito? Stiamo comprando sempre le stesse radio, che sono quelle che orientativamente conosciamo, che sappiamo che funzionano, che vanno bene. C'è sempre da sperimentare, da fare. Il mondo della radio ho provato io 30 anni di radio, ho applicato, ne ho provato tante, ma credimi, tante, il doppio di quello che ho visto qua, di qualsiasi marca, di qualsiasi tipo, provata, contattata, visto quali sono le differenze da una all'altra, però non si finisce mai di imparare, mai. È un mondo molto, molto vasto di cose che vengono modificate, sperimentate, poi messe in commercio, elettroniche, magari riconfermate, perché sai, ci sono radio che vengono riconfermate dopo tanti anni, come c'è gente che cerca molto 940, c'è gente che cerca lì il 430, che sono delle radio vecchie, il 440, perché hanno delle caratteristiche tecniche che ti permettono di fare un po' di tutto da tutte le parti, mentre altre radio hanno sì caratteristiche molto più elevate del 440 e 940, però non ti permettono una trasmissione solare, insomma, come la M, ecco, molte radio hanno tutto, lavorano tutte le parti, però tu puoi venire lì a fare due chiacchiere in M e iniziano a doppicare, mentre 440, 940, 430, 140, sono radioline che sono nate dal nulla, che costano una barca di soldi appena uscite, sono scogliatorie, però ti permettono di fare tutto a due, capito? Cioè, con non tanta affidabilità, però ti permettono di lavorare. Ho lavorato le 3 chiamo, con 300 euro, diciamo, a KS, che fa tutto, capito? Ma 440 che c'è tu, qual è il valore del mercato, diciamo, quando si riesce a trovare? 450 euro. C'è stato un bel apparato comunque. E l'uomo quanto costa? Supererà l'euro sicuramente. Quanto costa? Il mio 440 quando è uscito completo come il mio, completo, quindi schema phoneme, accordato all'interno, tutti i filtri, forse non bastavano 3 milioni. Gaffa, quindi una marca di soldi. Pensavo bene allora. Guarda, qua ci andiamo a toccare i tasti vecchi di quanto io farei allora la radio che ho, forse un mio appartamentino mi esce. E ci credo benissimo, cacchio. Quello di mezzo, quello grosso quanto costa, quello il più grosso che c'hai? Quello costa 2.000 euro, non ti credo così. Ma lì sono 4 milioni, quindi non è che... Ma così da già 10.000 io ho pagato quasi 3.000 euro, 2.700 euro, capito? Quindi così a 2.700 euro lì e quanto sono? Poi a 3.000 euro il 940, ho preso usato, altre 600 euro il 902, altre 700 euro il CR7000, insomma, se andiamo a comprare di euro ce ne sono parecchi, erano grandi cose, però ce ne sono. Oggi lo stesso dice c'è una bella stazione, Marco, così è? No, Marco è formato più per attività diversa dalla mia, non ha niente a che fare con me, lui è un DXC, praticamente appartiene a quelle categorie, io sono DX, non parlo a tempo, quindi è chiaro, devo avere stazione, non dico stazione, ma la radio che va a nota quota, nel senso che quanti ne ha tre, tutte e tre devono funzionare con delle caratteristiche alte, perché altrimenti non senti, non ricevi, non vai, capito? Ci vuole un amplificatore, ci vuole anche le rotanti, ci vogliono tante cose per fare il DXC, quindi per appartenere al mondo dei DX, quindi dei collegamenti internazionali e mondiali, uno di quelli, tra l'altro tantissimi grossi punteggi per quanto riguarda i DX mondiali, immaginate tu, mi pare che sia il nono o il decimo mondiale, vedi tu che cosa fa, quindi come siccome non mi interessa partecipare a queste cose, non me la frega niente il DX, mi interessa avere tutto, e quindi continuo a comprare, metto lì, compro, metto lì e quando ho deciso di accendere con la radio e farla funzionare in un altro questo, quando lo accendo, piano mi sento, ciao, come stai, baci, abbracci, saluta le bambine e le dice grazie. Da voluto diverso da quello che deve fare, lui è più specifico, dai. Lui, siamo tutti e due allenatori, però lui appartiene a un mondo diverso dal mio, io non stare a fare quelle cose, non mi interessa, non mi è interessato neanche quando avevo il barattino che mi piaceva parlare, non mi piace parlare, basta, non mi interessa niente, stare lì a fare collegamenti, capito, proprio zero completamente, sei capita così qualche volta come stasera ho fatto mettere l'altro in 40 metri per fare delle prove con una penna che ho portato. Sentito c'era un questo in una frequenza di italiani praticamente continentali, sono entrato, salutato, fatto due chiacchiere così, ma a questi livelli, capito? Quindi parlare con tutta l'Italia, parlare con come sto parlando così con te, a questi livelli mi interessa, ma stare lì, wish, wash, brick and block, su e giù, e tric e track, a me, manco la vita. Cappa, poi devi conoscere le lingue, ci vuole il tempo per prendere il collegamento, eccetera, eccetera. Sei più sbrigativo, tu dai. Italiani, io parlo solo l'italiano e parlo con gli italiani. Ora c'è un italiano in Russia, le parte parla italiano. Se lui parla italiano, io posso rispondere. Se lui parla russo, parla con chi capisce il russo e con chi parla russo. Un bel nome, Valide. Cappa, vediamo se è arrivato Mario, sta ricaricato. Mario, ci sei? Gaffa, e sono anche con le piede dentro la culla. Ma sei un altro oltre a Mario? Ma perché ci sta dentro la culla? A voi adesso ci sto, ce ne stanno anche altre due. Ah, non ti ho capito. Lì, questo sarà una bellissima radio degli anni che furono. Qui siamo già a 170 fiori e mancano 9 giorni. Immagina già di due, ci sono 5 offerte. Fai conto. Questo è un fatto portaciere alle 3, vuole 18 euro, perché pesa 38 kg questa bestia. Mancano 9 giorni e siamo quasi a 200 euro. Cosa si tratta? 102. ST 102 del mio paese, io ho 902, che adesso non ricordo se questo è superiore o inferiore al mio. Io ho ST 102, sottoparlante, e microfono MD1, la stessa linea che ho io. Tutto in perfette condizioni, bimba, ho preso il microfono a tavola MD1, abbiamo capito, spero l'oggetto raggiunga un'offerta. Un'offerta giusta in 3 o 4 giorni. Ah, ecco, questo vuole già iniziare a mettersi in questo la parte, questo è 102, questo io l'ho avuto. Capito? Io ho tutta la foto delle radio che ho avuto, con questo qualche giorno te le faccio vedere, così ti fai un po' un... Il microfono ce l'ho io, questo che è questo, veneno, MD1. E questo là io l'ho già avuto. È una signora radio, ma è una rottura del bar. Perché c'è la storia finale a valvole, devi fare tre accordo e un sacco di contratti, capito? Quindi non è una radio che possiamo usare tutti, perché secondo come fare il tre accordo, credi in valvole e troviamo la radio, troviamo il tuo di più. Claudio, tu da cosa hai iniziato? Qual è stato il primo apparato, il primo giocatore che hai iniziato? Da? Io ho iniziato con DS430, poi l'avevo venduto e mi sono comprato il 757GX, poi l'ho venduto e ho comprato il 757GX2 nella Iaesu, quindi sono passato pieno di Iaesu, poi dalla Iaesu sono passato alla Nikon con 735, ho iniziato tutte le categorie che andavano bene per la M, ma non... sì, andavano bene, ma non erano di questi qua. L'unico che andava bene era 430. Poi della serie T ho avuto l'830, l'820, due, il 751 America, che era una bellissima radio. Guarda, ne ho avuto tante. Però quando io poi ho trattato che il 140, ho avuto spesso il 130, prima il 140, 180, poi ho avuto il 450, ho lavorato, non mi piaceva come modulava, ne ho avuto tante, vabbè, qua. Se ancora l'elenco non so neanche cosa tutto ho avuto. No, ma volevo dire in CB il primo baracchino che ha avuto, quanti canali, cosa era? Ma non ho mai avuto io un baracchino, io ti sto dicendo, la prima radio che io ho modulato era il PS430, era appena uscito, baracchino. No, l'apparecchio è voluto, chi ti ha buttato su quel giro di, su quel discorso lì? Qualche amico radioamatore, qualcuno? No, ho sentito modulare, c'era una quassa, io quando sono arrivato qua quassa già modulavo un po' della radio. Mi sono diventato radioamatore perché praticamente sono stato costretto a farlo, perché io non sono mai riuscito a modulare con apparecchiature piccole, con pochi watt, quindi qualcuno non le piaceva questo mio atteggiamento, quindi avevo tutti i giorni le sue poste sotto casa. E allora alla fin fine mi sono deciso di fare il salto di categoria, così a qualcuno che non le piace si gira la faccia e dice purtroppo non posso fare più niente. K, riprendi Mario. Hai fatto bene, a me non si grattano, e vabbè, cosa vuoi, purtroppo la gelosia è come la roccia, ma si grattano i rumantesi, fregatene, davvero. Non ci vuoi fare, qua. Ma ti pensi adesso a prendere tutti quanti quei quattro che hai speso in radio? Dai, mi sei comprato, se vuoi a passare 20. Io non voglio illudermi, non voglio dire male a nessuno, ma io da quando ho iniziato, quindi lasciamo perdere quando ero ragazzino, ma quando io ho finito di studiare, che sono entrato a lavorare, quindi i soldini ce li ho sempre avuti in tasca. Oggi io forse ne avrei avuto più di uno di appartamento. Tranquillo, ne ho avuto più di uno. Io sono arrivato ad avere in lire negli anni 90, 91, ti faccio le fotografie, anche 15-20 milioni di apparecchiature. 90, 91, quegli anni lì. Quindi, poi rimodernato, rifatto, ripreso, in euro non parliamo, in euro sembra che siano noccioline. KK. Oh, lo so perché anche io ne ho speso i soldi, e alimentatori, e questo, e quello, e baracchini, e rimoderna, rifai, ripiglia, ricompra, e così, cioè, sempre cercando di migliorare un pochettino, e niente, là. Poi il guaio è che io compro, però non riesco a vendere niente, cioè non mi piace vendere. No, Mario, io preferisco più scambiare se c'è qualcosa che possiamo scambiare, ma giusto così per aiutare un amico, magari c'è quello, dammi questo, ce l'ho voluto, questo, ciccia, ma vendo, non vendo niente io. Io guardo le apparecchiature che ho ancora anche usato, Roberto, gli avvisi, io uso sempre questo, gli altri sono sempre spente, no? Però tanto ce li ho, non me ne frega niente. Potrei tranquillamente dare qualcosa, no? lasciare i buchi, come si dice, aperti, non mi piace, ma ci ho detto, non mi piace, io voglio tutto sotto controllo, e qualcuno mi dirà, questo è megalomane, sono megalomane, però a me le radio piacciono anche guardarmele, non solo usarle. Quando decido di usarle cambio comunque l'antenna e vado a parlarci, non c'è problema. Non c'è nessun problema. Però l'importante è che ce l'abbia, poi se gli altri non ce l'hanno se la comprano, se possono comprarsela. Io non sono geloso di nessuno. Riprendi Robert. Di break. Cos'è? Ti trovo un break. Via che break. Intanto non sono a tutti, però domani impegnatoci. No, non sono impegnato. va bene. No, no, non sto centinale, io qua. Ho bisogno di altezza io. Buonasera a tutti che sto ascoltando. Ciao Roberto, ciao Mario, come so che ci sia. Entrate per sentito. Ma domani per sentito, mi ha parlato sopra Mario. Ciao, buonasera per sentito. Ma io quelli con la radio non faccio assolutamente niente, perché a me di Ravenna o chissà radio non mi interessa proprio niente, caro Giovanna. Io la radio che ho sono abbastanza sufficiente, poi a me piace la radio che trasmetto la AM, non che trasmetto la banda laterale. Tanti regolariatori, ormai come tecnologia, che non me la contribuo più nulla. Io sono animatore per avere la tutta l'attrezzatura e quel punto che si è attaccato al muro, quello mi interessa più di tutti. Poi per il resto le radio a me, bande laterali proprio, ci sono, non ci sono. Non me la putti nulla, adesso lunedì o martedì arriverà al 450, ricorrevo l'MC85, vediamo come va. Se non risponde come questo va bene, se non risponde come questo lo dovremmo andare indietro anche quello lì come l'850. Io la segno, lo giro Allora, io invece mi prendo le 79.000, faccio una privata, non mi interessa 7.008. Proprio non mi ha più un 7.008, non è un apparato che... Ecco qua, arrivederci, ciao, din din din din, aiuto, vai a far culo, chiuso. Thank you. è un... sono cose professionali di questa casa costruttrice, perciò io ce l'ho tantissimi anni, l'ho usato poche volte perché non lo potevo usare, però quando l'ho usato qualcuno ce l'ha venduto anche la radio, qualcuno ce l'ha comprata nuova perché è venuto a prendermi a casa e involontariamente io mi sono dimenticato di staccarlo e gli ho detto sto scendendo e quando sono sceso la radio era in fumo. Antenne ne ho bruciato parecchie, di cui una l'ha vista anche Luca, il buco che gli ho fatto la mano con uno. E qualcuno è sparito perché non aveva tregua, non c'era niente da fare, a distanza di 20 chilometri prendeva colpi, non sapeva neanche a dove stavano arrivando. Quindi io sono sicuro di quello che dico, qualcuno dice di no, vabbè pazienza, quando sarà il momento vuol dire lo proveremo, ma questi erano gli argomenti di stasera. Ogni sera ce n'è uno, comunque l'importante è fare radio educatamente, quando c'è maleducazione allora io rimango in silenzio perché non voglio rincorrere a cose che non devo rincorrere, si può scherzare, si può fare, però quando si esagera poi io rimango fuori, se si parla così educatamente a me mi va bene, si può anche scherzare, però basta non ci siano movimenti strani perché altrimenti io mi ritiro tranquillo, sereno, senza dare fastidio a nessuno. K, non devi dare fastidio a nessuno, se no è un guaio. Così è, no, a me una mi basterebbe anche le centimi per quello che lo uso io, però diciamo che il Kegut è Kegut. Guarda, l'FT io te l'ho già detto, ce l'ho, ne ho due dell'FT io, figurati, ho le due serie, Sommercamp e Iaesio. Ce l'ho conservato perché non metterlo lì, non ne faccio niente, esporre, devi fare piramidi, c'ho strumenti nuovi, anche l'armadio io che non ho mai usato, cosa metti lì, cos'è buono, mi è venuto Roberto stasera, ho appoggiato lo strumento sopra, una radio già, devi alzare in piedi per prenderla, e quindi l'ho tolto, non ho messo anche l'armadio, perciò non mi va, adesso appena mi arrivano altre due radio, devono ancora arrivare. Una arriverà lunedì e l'altra arriverà martedì. Devo togliere l'inoit perché l'ho messa a tappare il buco e a conservare l'inoit dentro l'armadio. Quindi dentro l'armadio di base ce ne sono già due, più uno il supercar, più quell'altro. Ma non ne vale tanto questa roba. Quindi non è che mi interessi averla. Cioè mi interessa averla, mi interessa averla, capito? Così ce l'ho lì quando capita. Adesso vedi, devo andare a casa, mi serve un baracchino, lo prendo, lo metto la base magnetica e viaggio, giusto per un po' di compagnia, magari incroci qualche amico o camionista, ti firmi a prendere un caffè, eccetera, capito? Tutto lì. Vabbè. Comunque ci vogliono anni per fare cose del genere, Mario, perché se le fai tutte una volta te ne esci fuori di casa. Quindi io ci ho messo tantissimi anni, con questo lavoro, piano piano, sto sempre andando avanti, e poi si vedrà, adesso Roberto lui ha iniziato da poco, ha iniziato con un portatile, poi un baracchino, adesso c'è un base, poi magari quello lo rinnovo, lo vendo, ne prendo un altro superiore, e così via, no? Una volta che c'è il capitale da poter far girare il denaro, allora è diverso, magari non vuoi il capitale, ma se io cominciato io a comprare ogni anno la radio, cioè si viene un po' in salita, capito? Quindi devi fare tantissimi sacrifici. Quando invece c'hai il compravendo, allora è diverso, perché è una radio, non ti interessa più, la vendi, cos'è la cima? 500 euro, ecco, ne aggiungi 500 e ne compri un'altra, ma altrimenti devi aggiungere 1000, il problema è quello. Guarda roba. K, si fanno tutte direttamente le cose, almeno non ho sempre fatto così, a meno che non vengo mai di là, non è il caso mio di buttare soldi così. Non ha risposto nessuno, perché io comunque con le radio ho quattrini. Io a volte verso una radio che non mi interessa più, l'ho già superata, già andata, e ne compro un'altra, come già successo. Capito? Però ci sono radio, io ci sono affezionato, funzionano bene, a me non mi frega niente se ci hanno 20 anni, sono nuovissime le grigie, quindi me le prendo perché non valgono niente, perché darle. E allora faccio il sacrificio per comprarne un'altra, come ho già fatto ultimamente, come devo fare anche quest'anno, nel 2006, perché tu sappi, la mia decisione è sempre quella, io ogni anno devo comprare una radio, ma una radio consistente. Quello che ho comprato sono scambi praticamente, sono rimasti lì, ma io a fine anno praticamente, quindi prima di Natale, a giugno, perché io non ho niente da dire a nessuno, quindi non me la frega niente, no? Mia moglie mi lascia tutti gli anni o la tredicesima o la quattordicesima, quindi uno stipendio intero, più tutti i miei sacrifici, i miei risparmi, le mie straordinarie, le mie cose, a me mia moglie mi lascia tutto, non vuole niente, lui vuole stipendio e basta. Quindi io ho due stipendi più all'anno, perché ho la tredicesima e la quattordicesima, decido a giugno o a dicembre di comprare tutti gli anni la radio. Cappagaffa. Ecco lì Mario, la roba che arrivano in radio, perché giustamente come dice Maristro di Arandi nel Bugga, io siccome non ho niente da nascondere a nessuno, io le radio le compro così, poi se qualcuno lo può fare lo faccia, io non è che sono geloso per te. No, ma a me avere tutte le radio che hai tu non mi interessa, Cla. Era riferito a avere la radio, questa che stai modulando tu, avere una radio così io, cioè come modulazione, come tutto, perché si... ha detto che sei una bomba, mi pare un po' che le due, sì, però arrivi dappertutto, ebbene, non è che arrivi male, distorto, tutto che ti grugliolato, no, nulla, arrivi bene. Io vabbè, anni addietro abbiamo modulato comunque, sia da Alghero, da Capocaccia, prove ne abbiamo fatte tante con te, e con Gianni Bravo 2 da Osilo, prove ne sono state fatte tante, però è un sogno. Cioè è un sogno, diciamo che è una cosa che a chiunque fa radio come noi piacerebbe avere una radio bella, forte, squillante, prepotente a chi entra in ogni arrugo, entra, poi c'è sulla domanda a chi vedi, Mario, io capisco, io ho una timbrica di modulazione molto, molto aggressiva, nel senso che è molto limpida, molto, molto chiara. Però io ti posso dire questo, io ho sempre curato la parte audio, perché la radio è la cosa più importante che c'è. Tu puoi arrivare anche a vedere il segnale, però se la radio è praticamente bella, forte, penetrante, chiara soprattutto, il corrispondente ti capisce, è importante avere una bella radio, soprattutto che ci sia anche un pochino insomma di zona buona per poter far sì che il segnale arrivi da tutte le parti. Però io ho sempre curato molto la radio, a me piace la radio pulita, bella, chiara, forte, dove nessuno ti può dire stai uscendo male, ecco. Il problema è che a certo di queste radio ce ne sono tante, perché io so chi ce l'ha, chi lo usa, come lo usano, eccetera. Il fatto è che non riescono a avere le mani ferme, hai capito? Perché una radio quando è tratta per fare quello, non è fare quello, boh. Io non mi hai mai sentito l'uomo contro le radio, perché io prima di andare in trasmissione mi metto le cuffie, schiaccio il monitor, ascolto, perfetto, stacco le cuffie, buonasera a tutti. Se c'è qualche anomalia me la vedo io prima di entrare, capito, quindi non è il mio, non uso mai la mucatura d'aria, vogliamo che non stia facendo una zona di cambiamento, dei cambiamenti, delle cose, eccetera. Allora è diverso. Ma quando uno usa sempre la stessa radio e la lascia sempre così com'è, quando va bene, non c'è bisogno di toccare niente, come l'antenna. Tu sei benissimo, l'ho comprato l'antenna nuova, l'ho regalata col cuore, l'ho regalata perché gli ho fatto regalata col cuore, tutto perché non me la facevo niente, perché se la mia antenna sta funzionando e se mi sento in capo al mondo, perché io devo togliere quell'antenna e mettere un'altra nuova? Quell'antenna io ho deciso di rifarmela, nel senso che gli ho messo i radiali nuovi, l'ho tutta pulita per bene, ho fatto alcune modifiche sul connettore PL, anziché mettere il connettore PL, le ho messo un connettore N, sia nel cavo che nell'antenna, e l'antenna è perfetta, l'antenna ancora dura altri 10 anni, perché è nuova. Beh signori, vi interrompo, salutate Claudio, a Mario e poi chi c'è tutti gli altri che stanno ascoltando, alle prossime, mi addormento con la qualità perché sono a pizzi. Entra, entra, se no fa come se debbia, esatto.